You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto. Do il benvenuto a Indra Pereira, imprenditore. Buona serata. Buonasera Valentina e buonasera radioascoltatori. È un imprenditore presidente del CNA World dal 2009, dove si occupa in particolare di imprenditori immigrati, un po' come lui. È in Italia da più di qualche anno, è originario dello Sri Lanka e sin dalla prima edizione del premio MoneyGram Award per l'imprenditoria immigrata ha fatto parte della giuria. È così, esatto. Indra? Esatto, sì. Infatti il progetto CNA World è nato nel 2009 e in stesso anno è nato anche la premiazione di programma di MoneyGram Award, che premia ogni anno gli imprenditori immigrati per le loro eccellenze, un po' insomma imprenditori un po' come lei. Questa è una cena, no? Anche se in tarda serata, appunto. Sì. Che piatto ci porta questa sera del suo paese? Il piatto tipico del mio paese sarebbe riso al curry, e base di riso come primo piatto e poi altre pietanze che mangiano insieme con riso, sarebbe lenticchie o verdure bollite oppure carne oppure pesce, però sempre speziati. Riso al curry dello Sri Lanka. Se ordinate un piatto di riso al curry in Sri Lanka, vi serviranno un grande piatto di riso bianco e poi diverse ciotoline dalle quali attingere, rigorosamente con le mani, il condimento, che può essere di verdure, carne oppure pesce. Il riso è la base della cucina locale dello Sri Lanka, è considerato sacro e simbolo di vitalità. Di curry ne esistono due varietà. Una è similare a quello giallo indiano, l'altra è di colore nero-marrone ed è generalmente usata per aromatizzare piatti di carne. Ogni sri lankese prepara il suo personale curry, miscelando sapientemente le diverse componenti. Tutti gli ingredienti che costituiscono la mistura vengono tassativamente prodotti in loco. Coriandolo, cumino, chiodi di garofano, cannella, cardamomo, curcuma, polvere prevalente e pepe. Altra spezia utilizzata per insaporire il riso dopo averlo bollito nel latte di cocco è lo zafferano. Ogni curry viene insaporito con aromi e spezie fresche sempre diverse. Questo fa sì che non mangerete mai due curry uguali. Signor Pereira, ma lei è qui da qualche anno, abbiamo detto, dal 79, giusto? Dal 79 che vivo in Italia. E riesce a riprodurre questo piatto dello Sri Lanka anche qui a Roma, se non sbaglio, dove vive? Qualcosa sì, perché i miei figli piacciono riso bianco con salsa di pomodoro, ma le cose piccanti non sono ancora abituate a mangiare. Il riso è il pranzo del domenica, che preparo io con tanta cura. Ed è una maniera anche per lei per tornare un po' alle sue origini, no? Ricordare anche il pranzo che preparava mia madre in paese d'origine, insomma, sì. quando sente questi profumi del curry, del riso, sì, immagino che abbia nostalgia del suo paese. Nostalgia, sì, infatti, sento un po' più nostalgia. Lei è lontano da molti anni, perché è partito dallo Sri Lanka per venire in Italia? Io sono venuto in Italia perché per fare un corso presso la Fiat di Torino. Perché lei è ingegnere, no? Sì, dopo il corso sono rimasto in Italia, ho cercato anche entrare a lavorare con la Fiat, però c'erano tantissime difficoltà, a quell'epoca c'erano scioperi, Mirafiori, ho lavorato a vari posti, ho lavorato anche all'estero e poi sempre di nuovo ritornato in Italia e poi ho iniziato un'attività mia proprio di fornitore per uffici e poi parte di materiale elettrico, completamente diversa dai miei studi. E tra l'altro è uno dei tantissimi immigrati in Italia, lo ricordiamo, Union Camere e Infocamere, sulla base di alcuni dati di Banca Italia, ha diffuso da poco dei dati sull'imprenditoria immigrata in Italia, che è in ascesa, e lei la rappresenta anche nel CNA, no? Mi raccontava che qualche giorno fa è stato il Capodanno anche, esatto, nel suo paese. 14 aprile per noi è Capodanno. Quindi le devo fare gli auguri, buon inizio anno. Grazie, anche se in ritardo, comunque grazie. Capodanno dello Sri Lanka perché segue il calendario buddista. Buddista, sì. E lei è di religione buddista. Buddista, sì. Mi diceva che a casa sua c'è un mix di religioni. Sì, esatto, mia moglie è italiana e però è molto interessato a cultura indiana e poi religione, dedicata alla religione induista. Invece i miei figli sono battistani, sono cattolici, allora abbiamo tre religioni e diverse opinioni religiose all'interno a casa. Che ogni convivono? Tanto a tavolo parliamo le opinioni di ognuno. Che convivono pacificamente in casa sicuramente, sua? Sicuramente, sì. Sri Lanka la maggior parte, più di 87% sono buddisti, mm-hmm. E in minoranza sono cattolici, induisti e musulmani, però convivono senza nessun problema. Pacificamente. Pacificamente, sì. We've got each other's arms. You've got to win a little, lose a little, and always have the blues. That's the story of, that's the glory of love. Lei mi raccontava che questa introduzione della nostra puntata e anche il film da cui prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena, un film degli anni 60, una coppia mista che si incontra, una ragazza bianca, un ragazzo di colore che si incontrano negli anni 60 e vengono presentati in famiglia a questa famiglia americana di progressisti, ricalca un po' la sua storia. Esatto, infatti mi fa ricordare la mia storia quando sento questo dialogo del padre con che inizia con quali sono i problemi che potrà affrontare, perché la mia moglie è cittadina italiana. E quindi mi fa ricordare il primo giorno che mi ha presentato i genitori e come siamo visti, quali sono difficoltà che abbiamo affrontato. C'era dell'apprensione, del timore nei suoi suoceri? Sì, prima presentazione, naturalmente il primo giorno c'era un pochino di complicazioni, insomma, conoscere due diverse culture e poi fare una famiglia insieme. Adesso sono nati anche due bambini e sono 100% sono italiani loro. Sono italiani. Lei ha mai sentito, dottor Pereira, sulla sua pelle il pregiudizio, la discriminazione? Ma io, guarda, probabilmente è successo qualcosa, ma io non prendo in considerazione, perché io mi sento abbastanza integrato, probabilmente per gli altri che sentiranno diversità, ma io non prendo in considerazione, anche se è successo qualcosa, ma però... Cioè se l'ha fatto scivolare sopra, sì, no? Esatto, sì. Però in genere gli italiani sono molto generosi, io vedo in qualsiasi modo se c'è possibilità di aiutare uno straniero, ma aiuta volentieri, con cuore. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. And when the world is through with us, we've got each other's arms. You've got to win a little, lose a little. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Cry. sigh just a little. Let your cloud roll by, baby, little bird, baby. That's the glory of love. Long as there are just the two of us, have the world in its charm. Long as there are just the two of us, we hold each other's arm. Baby, now win just a little, lose just a little. Torniamo a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo di imprenditori stranieri in Italia, con i dati di questo trend di imprenditori stranieri sempre più di successo in Italia. Anche le rimesse dei lavoratori stranieri in Italia verso i loro paesi di origine hanno raggiunto cifre considerevoli di quasi 60 miliardi di euro dal 2005 al 2014. Sono dati del Centro Studi Impresa Lavoro su elaborazione dati di Banca Italia di proprio pochi giorni fa, e ne stiamo parlando con Indra Pereira, che è un imprenditore italiano di origini dello Sri Lanka, che ci sta un po' raccontando le difficoltà anche di fare impresa in Italia da stranieri. Se dovesse dire la difficoltà più grande che ha dovuto superare da quando è in Italia, qual è stata? Situazione economica, che naturalmente non c'era possibilità, non c'era aiuto per iniziare un'attività, insomma. Quindi dal punto di vista del diventare imprenditore naturalmente una cosa che, ecco, per questo noi abbiamo creato questa associazione di, cioè, imprenditori stranieri, perché interno CNA ha creato questa associazione di dare una mano agli imprenditori aspiranti, anche oppure imprenditori già creato l'attività, oppure creazione, per esempio startup, e poi gestione di un'impresa. Questi sono aiuti, cerchiamo di dare per aiutare gli imprenditori stranieri in Italia. Non creare nessuna diversità, per esempio, la nostra associazione facciamo parte dell'anche associazione degli imprenditori italiani, siamo tutti della qua. CNA, degli artigiani imprenditori. Possono entrare nel sito www.cnapmi.org e poi possono leggere tutte le informazioni. Take a little and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. Difficoltà, mi viene da dire, dottor Pereira, che sono un po' le stesse che colpiscono anche gli italiani che vogliono fare impresa, no? La difficoltà, esatto, sì. di far fronte a dei pagamenti invece che di raccogliere del credito bancario. Sì, finanziamenti da parte dello Stato. Per esempio, tutti imprenditori che lavorano o lavoratori stranieri contribuiscono anche al sistema pensionistico, però da parte dello Stato non abbiamo nessun aiuto. 12% del PIL nazionale è grazie a stranieri che vivono in Italia, però assistenza verso stranieri sono molto limitate. Questa è una cosa che dobbiamo combattere, stiamo lottando per avere almeno diritto di voto per i giovani che vivono in Italia, diritto di voto per i bambini che è nato in Italia, che hanno diritto di vivere in questo paese se i genitori vivono legalmente in Italia. Quindi voi vi battete anche per lo ius soli? Esatto, sì, naturalmente. Noi quindi per il diritto di voto per i bambini che nascono in Italia? Esatto, sì. Ma per esempio arriva a 18 anni e questo bambino non partiene più neanche per il paese dei genitori, perché tutto il tempo ha vissuto in Italia, è nato in Italia, ha mangiato in modo italiano e vissuto in modo italiano, però non puoi insistere che deve rientrare paese di origine perché non può rinnovare permesso di soggiorno. Mi diceva che un altro problema che con il quale combattono gli imprenditori, gli artigiani di origine straniera, è quello di farsi riconoscere i titoli di studio. Sì, esatto, è la cosa molto importante, perché se non c'è un accordo tra paese di origine con l'Italia, il titolo di studio non è riconosciuto, specialmente paesi di via di sviluppo. Io non vorrei utilizzare il terzo mondo, perché non è molto bello usare il terzo mondo, io vorrei definire paesi via di sviluppo. Oggi paesi come Brasile e India stanno andando molto avanti, e poi prima erano considerati non sono paesi. Dobbiamo vedere anche di riconoscere i titoli di studio di questi cittadini stranieri che vivono in Italia in modo che possano contribuire diversamente per l'economia italiana, uno che ha un studio, una laurea oppure infermieristica. Se poi non possono frequentare il loro lavoro, continuare il lavoro presso lo Stato italiano, insomma, è una perdita. Lei è ingegnere meccanico, ha avuto problemi con il riconoscimento del suo titolo di studio, della sua laurea? Sicuramente non abbiamo nessun accordo tra Italia e Sri Lanka per quanto riguarda titoli di studio. Un altro problema è quello dell'accesso al credito. Lei mi diceva è difficile per gli italiani, figuriamoci se uno si presenta ed è straniero in banca. Esatto, se non c'è una garanzia economica, insomma garanzia da parte dei cittadini stranieri, no, è difficile ottenere un contributo. Per esempio per questo CNA che abbiamo creato COPFIDI, che dare una mano a imprenditori, cittadini stranieri che aspiranti imprenditori possono consultare il nostro sito per ottenere informazioni sul credito che possiamo offrire ai cittadini stranieri. È vero anche che... per i cittadini italiani, non soltanto per i cittadini stranieri. È vero che l'imprenditoria immigrata si autofinanzia, spesso sono i parenti di questi aspiranti imprenditori stranieri che li finanziano quando vogliono iniziare un'impresa. Molti di loro, io posso garantire che molti di loro sono autofinanziati, insomma non dobbiamo dare questa impressione che gli stranieri sono aiutati dallo Stato italiano, veramente non è così. La crisi ha colpito indistintamente un po' tutte le imprese, ma l'imprenditoria straniera sembra vantare qualche punto di forza in più. Secondo lei quali sono i punti di forza? I punti di forza sono, maggior parte di sono attività gestite da familiari, per esempio marito, moglie, oppure i fratelli, parte della famiglia che dà una mano per portare avanti le attività, e allora con minore costi riescono a affrontare difficoltà economiche. Poi sono grandi lavoratori, non aspetta orari di pranzo, orari di caffè, ti continua a lavorare fino a che riesci a portare avanti il progetto. Il 25 di maggio scadrà il bando di iscrizione per chi volesse concorrere al premio MoneyGram Award. Lei fa parte della giuria dall'inizio, quindi dal 2009, ormai siamo alla settima edizione. Esatto, sì. Ci racconta un po' di cosa si tratta, cosa premia il MoneyGram Award? Allora, è dedicata a imprenditori stranieri, e anche stranieri che diventano italiani, non c'è nessuna difficoltà per quanto riguarda uno straniero che si è diventato. Il premio è dedicato in cinque modi, per cinque premi, sarebbe premio per innovazione, premio per l'occupazione, premio per la crescita del profitto, mm-hmm. e poi premio per la responsabilità sociale e ultimo premio per gli imprenditori giovanili. Quindi premia l'imprenditoria straniera in varie categorie. Cinque categorie, sì, esatto. Negli ultimi anni, tra le curiosità, il maggior numero di finalisti sono stati finalisti provenienti dal Perù con 11 finalisti, la Romania 10 finalisti e l'Albania 7 finalisti. Noi cerchiamo di influenzare, fare partecipare. Per esempio sri lankesi del mio paese, sono pochi che hanno partecipato, però finora non hanno vinto nessun premio. Invece ultimamente abbiamo visto anche pakistani, filippine, Bangladesh e stanno partecipando. Negli ultimi anni, tra l'altro, quasi il 50% dei finalisti erano donne. Quindi il fenomeno di fare impresa fra la popolazione femminile straniera in Italia è sempre più forte. Sì, più forte perché è più coraggiosi la donna. Quante candidature vi arrivano ogni anno? Dipende da interesse, perché la maggior parte non è neanche stato molto interessato. Noi cerchiamo di influenzare, infatti io in questo momento vorrei dare anche nel sito nostro da www.cnapmi.org per ulteriori informazioni su questo MoneyGram, altrimenti direttamente a www.moneygramaward.com, possono consultare il sito e poi presentare la domanda tramite CNA, altrimenti direttamente. Ancora un mese per partecipare a questo premio, 25 maggio 2015 è la scadenza della settima edizione, e speriamo che qualcuno in ascolto, insomma, si decida a partecipare e possa anche vincere. La ringrazio, Indra Pereira, imprenditore di origini dello Sri Lanka, italiano ormai in Italia da tantissimi anni, grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie Valentina e grazie ascoltatori e buona serata a tutti. the two of us. We've got this world and not of his choice. But when this world is through with us, we'll have each other's arms. You've got to win a little. E a Milano sono presenti in questo periodo anche degli studenti internazionali che stanno seguendo un corso alla Cattolica di Milano, all'Università Cattolica, pensate, di lingua italiana attraverso la cucina. Cioè tutti i mercoledì sono chiamati in un'aula con un professore di italiano e un professore di uno chef che insegna loro a cucinare, e attraverso la preparazione del cibo, i discorsi che si fanno intorno alle pentole e ai piatti, stanno imparando l'italiano. Noi li abbiamo conosciuti all'Università Cattolica di Milano, abbiamo chiesto loro cosa si prova ad essere a Milano in questo periodo particolare in cui viene inaugurata l'Expo 2015. Lose a little, and uno di loro si chiama Vito, uno studente di legge brasiliano che arriva da Belo Horizonte, ha antenati italiani e per questo ha voluto conoscere il paese che in questi mesi lo sta ospitando, l'Italia, ed è totalmente affascinato da Milano in questo periodo appunto in cui a Milano si tiene l'Expo. Sì, sì, è vero, è un piacere di stare nella radio parlando con voi e di parlare di cucina, non è un'opzione migliore che questa. Penso che abbiamo scelto un momento certo, giusto, di stare a Milano, perché la Expo, a Brasile, penso che tutti i paesi si parlano molto di questo, della Expo. Quindi stare qui a Milano in questa epoca è benissimo. Penso che il cibo, e facendo il corso di cucina, tutto perfetto, lo giusto tempo. Sì, sì. Abbiamo imparato di fare risotto alla Zafferano, che per noi è completamente diverso, non ho mai mangiato prima di qui in Milano. L'Italia per me è un sogno di stare in Italia, perché ho un familiare di Italia, stare in Italia per me è un piacere. Una cosa che io manco di Brasile è la grigliata, perché in Brasile abbiamo molta carne, ci riuniamo in una casa di qualcuno per fare questo, è molto tradizionale. Abbiamo tante famiglie italiane in Brasile. Abbiamo imparato come si fa la pasta e la pizza italiana, anche il risotto, come hanno detto. Penso che sì. Ho conosciuto tante persone che mi piace qui in Italia. Penso che posso chiamare di amico adesso. Sono bellissimo. Ma mi piace quando posso parlare in italiano, perché questa è la bella lingua. E penso che tutti noi che abbiamo scelto l'Italia abbiamo scelto per lo idioma, per la lingua italiana anche, che è tan bella, per me è bellissima la lingua. Alex invece studia economia in Olanda, è a Milano anche lui per 6 mesi. Mi piace tanto cucinare, e poi ho deciso di fare questo corso per imparare un po' di più di italiano che si usa nella cucina e di imparare nuove ricette. Mi piace tanto l'Italia, ho studiato l'italiano per qualche anno, ho famiglia in Italia, comunque non ho origine italiani, ma è sempre stato il mio sogno di andare in Italia, e l'università aveva la possibilità di andare per un semestre a Milano, e poi ho scelto di fare questo. E c'è qualcosa invece che non ti piace dell'Italia rispetto a quello che tu immaginavi prima? Forse che c'è un po' di burocrazia e devi compilare tanto, sì, devi compilare tanti fogli, e questo non mi piace davvero, perché in Olanda non si fa così. E tutto è più veloce, ma anche mi piace che qui non c'è davvero la fretta. Forse a Milano un po', ma comunque per me è rilassante. E l'università in che maniera è diversa? Qui l'università è più grande che la mia. Gli italiani sono più silenziosi quando c'è una lezione, E i professori anche dicono, quando finisce le lezioni alle 1:30, si dicono buon appetito, perché sanno che vai alla mensa o in un ristorante. Quello mi piace tanto, perché noi mangiamo qualcosa durante le lezioni, questo è diverso, sì. Perché in Olanda mangiate durante le lezioni? Sì, quando non hai davvero tempo e hai preso il panino, lo mangi durante le lezioni. Una cosa che ho sentito in la lezione è che gli studenti italiani sono molto, molto, come si dice, attenti alla lezione, molto seri. Va molto bene così, perché sono un stimolo per studiare più, stare nello stesso livello degli studenti. E a Brasile gli studenti non sono così. Non studiano tanto così come gli italiani, então, questa è una cosa veramente importante, una buona cosa che ho imparato con gli italiani. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo, buona serata da Valentina Furlanetto. You've got to give a little, that's the glory of